Questa mattina sull'home page di Reporter Associati una lettera documento, un j'accuse da un certo punto di vista addirittura scioccante, che ci viene da un sottufficiale dei carabinieri di stanza in Siria e rientrato da pochi giorni in Italia. Noi naturalmente abbiamo controllato il mittente, abbiamo controllato tutto e siamo ben sicuri che questa denuncia farà molto rumore. Le condizioni di vita che c'erano nella base di Nassiriya prima del tremendo attentato del 12 novembre che portò alla morte di 19 persone. Bene, questa lettera documento è un atto di accusa ben preciso contro la mancanza pressoché totale di misure di sicurezza che si vivevano all'interno della base, e addirittura ad un certo punto furono persino i militari, senza più ordine né gerarchia e con metodi in alcuni casi artigianali, a costruirsi delle difese passive, come dei piccoli muri di cemento e altre cose. Basti dire che il nome che i militari italiani avevano dato alla base era quello di Animal House. Una lettera veramente drammatica, un j'accuse molto duro su come si sarebbe potuto forse anche evitare quell'attentato. In ultimo, volevo ricordare nella giornata di oggi che un altro giornalista, un collega, un reporter di guerra è morto ad Haiti tra la notte e questa mattina, e mi riferisco a Riccardo Ortega di Antenna 3 Spagnolo, un reporter di guerra che era lì ad Haiti solo per compiere il proprio lavoro. Roberto Di Nunzio, direttore di Reporter Associati in collaborazione con Amisnet.